La zia Daniela si innamorò come si innamorano sempre le donne intelligenti, come un idiota. Lo aveva visto arrivare un mattino, le spalle rette, il passo sereno, e aveva pensato: quest'uomo si crede Dio. Ma dopo averlo sentito raccontare storie di mondi lontani, di passioni sconosciute, si innamorò di lui e delle sue braccia, come se non parlasse latino sin da bambina, non avesse studiato logica e non avesse sorpreso mezza città imitando i giochi poetici di Gorgora e di Suor Juana Inés de la Cruz, come chi risponde alla filastrocca durante la ricreazione. Era tanto colta che nessun uomo voleva mettersi con lei, per quanto avesse occhi di miele e labbra di rugiada, per quanto il suo corpo solleticasse l'immaginazione risvegliando il desiderio di vederlo nudo, per quanto fosse bella come la Madonna del Rosario. Gli uomini avevano paura di amarla, perché c'era qualcosa nella sua intelligenza che suggeriva sempre un disprezzo per il sesso opposto e le sue incertezze. Ma quell'uomo, che nulla sapeva di lei e dei suoi libri, le si accostò come a chiunque altra. Allora la zia Daniela lo dotò di un'intelligenza abbagliante, una virtù angelica e un talento d'artista. Il suo cervello lo guardò in tanti modi che in capo a 12 giorni credette di conoscere 100 uomini. Lo amò convinta che Dio possa aggirarsi tra i mortali, abbandonata con tutta se stessa i desideri e alle strambrie di un uomo che non aveva mai avuto intenzione di rimanere e non aveva mai capito neppure uno di tutti i poemi che Daniele aveva voluto leggergli per spiegare il suo amore. Un giorno, così come era venuto, se ne andò senza neppure salutare. Non ci fu allora in tutta l'intelligenza della zia Daniela una sola scintilla in grado di spiegarle ciò che era successo. Ipnotizzata da un dolore senza nome né destino, diventò la più stupida delle stupide. Perderlo fu un dolore lungo come l'insonnia, una vecchiaia di secoli, l'inferno. Per pochi giorni di luce, per un indizio, per gli occhi d'acciaio di supplica che le aveva prestato una notte, la zia Daniela sotterrò la voglia di vivere e cominciò a perdere lo splendore della pelle, la forza delle gambe, l'intensità della fronte e delle viscere. Nel giro di 3 mesi divenne quasi cieca, le crebbe una gobba sulla schiena e dovette succedere qualcosa anche al suo termostato interno, perché nonostante indossasse anche in pieno sole calze e cappotto, batteva i denti dal freddo come se vivesse al centro stesso dell'inverno. La portavano fuori a prendere aria come un canarino, le mettevano accanto frutta e biscotti da becchettare, ma sua madre si portava via il piatto intanto, mentre Daniela rimaneva muta, nonostante gli sforzi che tutti facevano per distrarla. All'inizio la invitavano in strada per vedere se, guardando i colombi e osservando la gente che andava e veniva, qualcosa in lei ricominciasse a dare segni di attaccamento alla vita. Provarono di tutto. Sua madre se la portò in Spagna e la fece girare tutti i locali sevigliani di flamenco senza ottenere da lei nulla più di una lacrima. Una sera in cui il cantante era allegro. La mattina seguente inviò un telegramma a suo marito: comincia a migliorare, ha pianto un secondo. Era diventata come un arbusto secco, andava dove la portavano e appena poteva si lasciava cadere sul letto, come se avesse lavorato 24 ore di seguito in una piantagione di cotone. Alla fine non ebbe più forze che per gettarsi su una sedia e dire a sua madre: ti prego, andiamocene a casa. Quando tornarono, la zia Daniela camminava a stento ed allora non volle più alzarsi dal letto. Non voleva neppure lavarsi, né pettinarsi, né fare pipì. Un mattino non riuscì neppure ad aprire gli occhi. È morta, sentì esclamare intorno a sé e non trovò la forza di negarlo. Qualcuno suggerì a sua madre che un tale comportamento fosse un ricatto, un modo di vendicarsi degli altri, una posa da bambina viziata, che se di colpo avesse perso la tranquillità di casa sua e la pappa pronta, si sarebbe data da fare per guarire da un giorno all'altro. Sua madre fece lo sforzo di credergli e seguì il consiglio di abbandonarla sul portone della cattedrale. La lasciarono lì in una notte con la speranza di vederla tornare, affamata e furiosa, come era stata un tempo. La terza notte la raccolsero dal portone della cattedrale con la polmonite e la portarono all'ospedale tra le lacrime di tutta la famiglia. All'ospedale andò a fare visita alla sua amica Elide, una giovane dalla pelle luminosa che parlava senza posa e che sosteneva di saper curare il mal d'amore. Chiese che le permettessero di prendersi cura dell'anima e dello stomaco di quella naufraga. Era una creatura allegra e attiva. Ascoltarono il suo parere. Secondo lei, l'errore nella cura della sua intelligente amica consisteva nel consiglio di dimenticare. Dimenticare era una cosa impossibile. Quel che bisognava fare era imbrigliare i suoi ricordi perché non la uccidessero, perché la obbligassero a continuare a vivere. I genitori ascoltarono la ragazza con la stessa indifferenza che ormai suscitava in loro qualsiasi tentativo di curare la figlia. Davano per scontato che non sarebbe servito nulla, ma autorizzarono il tentativo come se non avessero ancora perso la speranza che ormai avevano perso. Le misero a dormire nella stessa stanza, passando davanti a quella porta. In qualsiasi momento si udiva l'infaticabile voce di Elide parlare dell'argomento con la stessa ostinazione con la quale un medico veglia un moribondo. Non stava zitta un minuto, non le dava tregua, un giorno dopo l'altro, una settimana dopo l'altra. Come detto che erano le sue mani? Chiedeva. Se la zia Daniela non rispondeva, Elide l'attaccava su un altro fronte. Aveva gli occhi verdi, castani, grandi, piccoli, rispose la zia Daniela aprendo bocca per la prima volta in un mese. Piccoli e torbidi? Domandò la zia Elide. Piccoli e fieri, rispose la zia Daniela e ricadde nel suo mutismo per un altro mese. Era sicuramente del leone. Sono così i leoni, diceva la sua amica, tirando fuori un libro sui segni zodiacali. Le leggeva tutte le nefandezze che un leone può commettere. E poi, poi sono bugiardi. Ma tu non devi lasciarti andare, tu sei un toro, sono forti le donne del toro. Di bugie sì che ne ha dette, le rispose Daniele una sera. Quali? Non te ne scordare, perché il mondo non è tanto grande da non incontrarlo mai più. E allora gli ricorderai le sue parole, una per una, quelle che ti ha detto e quelle che ha fatto dire a te. Non voglio umiliarmi. Sarei tu a umiliare lui. Sarebbe troppo facile seminare parole e poi filarsela. Le sue parole mi hanno illuminata, lo difese la zia Daniela. Si vede come ti hanno illuminata, diceva la sua amica, arrivata a questo punto. Dopo 3 mesi, ininterrotti di parole, la fece mangiare come Dio comanda. Non si rese neppure conto di come fosse successo. L'aveva portata a fare una passeggiata in giardino, teneva sotto braccio una cesta con frutta, pane, burro, formaggio e tè, stese una tovaglia sull'erba, tirò fuori la roba e continuò a parlare, mettendosi a mangiare senza offrire nulla. Mi piaceva l'uva, disse la malata, capisco che ti manchi. Sì, disse la zia Daniela portandosi alla bocca un grappolo d'uva, baciava divinamente. E aveva la pelle morbida sulla schiena e sulla pancia. E com'era? Sai di che cosa parlo? Disse l'amica, come se avesse sempre saputo che cosa la torturava. Non te lo dico, rispose Daniela ridendo per la prima volta dopo mesi. Mangiò poi pane, burro, formaggio e tè. Bello? Chiese l'idea. Sì, rispose la malata, rinunciando a essere se stessa. Una sera scesero a cena. La zia Daniela indossava un vestito nuovo e aveva i capelli lucidi e puliti, finalmente liberi dalla treccia polverosa che non si era pettinata per tanto tempo. 20 giorni più tardi, le due ragazze avevano ripassato i ricordi da cima a fondo fino a renderli banali. Tutto ciò che la zia Daniela aveva cercato di dimenticare, sforzandosi di non pensarci, a furia di ripeterlo divenne per lei indegno di ricordo. Castigò il suo buon senso sentendosi raccontare una dopo l'altra le 120.000 sciocchezze che l'avevano resa felice e disgraziata. Ormai non desidero più neppure vendicarmi, disse una mattina a Elide. Sono stufa marcia di questa storia. Come? Non mi ridiventare intelligente adesso, disse Elide. Questa è sempre stata una questione di ragione offuscata. Non vorrei trasformarla in qualcosa di lucido. Non sprecarla, ci manca la parte migliore. Dobbiamo ancora andare a cercare quell'uomo in Europa, in Africa, in Sud America, in India. Dobbiamo trovarlo e fare un baccano tale da giustificare i nostri viaggi. Dobbiamo ancora visitare la Galleria Pitti, vedere Firenze, innamorarci a Venezia, gettare una moneta nella fontana di Trevi. Non vogliamo inseguire quell'uomo che ti ha fatto innamorare come un imbecille e poi se n'è andato. Avevano programmato di girare il mondo in cerca del colpevole e questa storia che la vendetta non fosse più imprescindibile nella cura della sua amica era stata un brutto colpo per Elide. Dovevano perdersi per l'India, il Marocco, la Bolivia, il Congo, Vienna e soprattutto l'Italia. Non aveva mai pensato di poterla trasformare in un essere razionale dopo averla vista paralizzata e quasi pazza 4 mesi prima. Dobbiamo andare a cercarlo. Non mi diventare intelligente prima del tempo, le diceva. È arrivato ieri, le rispose la zia Daniela un giorno. Come lo sai? L'ho visto. Ha bussato al mio balcone come una volta. E che cosa hai provato? Niente. E che cosa ti ha detto? Tutto. E che cosa gli ha risposto? Ho richiuso la finestra. E adesso? Domandò la terapista. Adesso ce ne andiamo in Italia. Gli assenti si sbagliano sempre. E se ne andarono in Italia sull'onda delle parole di Dante. Piovrà dentro all'alta fantasia. Amalia Ruiz, Trovò la passione della sua vita nel corpo e nella voce di un uomo proibito. Per più di un anno lo vide arrivare febbrile fino all'orlo della sua gonna, che faceva volare in alto con un abbraccio. Non parlavano troppo, si conoscevano come se fossero nati nella stessa stanza, suscitavano l'uno nell'altra tremore e felicità, soltanto sfiorandosi il soprabito. Il resto usciva dai loro corpi fortunati con tanta facilità che bastava stessero insieme pochi minuti perché la stanza dei loro amori risuonasse con la sinfonia pastorale e profumasse come se l'avesse creata Coco Chanel. Quella gloria manteneva le loro vite in equilibrio e rendeva la loro morte impossibile. Erano belli come un incantesimo e pieni di promesse come una fantasia. Finché una sera ad ottobre l'amante di zia Meli arrivò tardi all'appuntamento parlando di affari. Lei si lasciò baciare senza ricambiare e sentì l'alito dell'abitudine devastarle la bocca. Tenne per sé i rimproveri, ma tornò a casa di corsa e non volle sapere più nulla di quell'amore. Quando l'impossibile vuole diventare abitudine, bisogna rinunciare, spiegò a sua sorella, che non riusciva a capire un atteggiamento così radicale. Non si può ambire una cosa proibita, possederla a volte come una benedizione, amarla più che altro per questo. Perché è impossibile, disperate, da un giorno all'altro trasformarsi nella dépendance di un ufficio. Non posso permettermelo, non ho intenzione di permettermelo. Bisogna ringraziare Dio per averci dato qualcosa di proibito. Per molto tempo si disse che Amanda Rodoreda era figlia di Antonio Sanchez, il miglior amico di suo padre. Ma neppure la sua stessa madre sembrava sapere di dove le fosse arrivata in pancia quella bimba tanto poco somigliante ai due uomini che per sua disgrazia le avevano attraversato la vita. Dicono che quando la mise al mondo il suo cuore ardesse ancora per la bocca e le mani di Antonio Sanchez, sebbene la sua testa riposasse come sempre in grembo al suo pacifico Rodoreda. Per molti anni aveva vissuto con entrambi da mattina a sera, ascoltandoli mentre inventavano affari e li realizzavano, osservandoli nei loro successi e nei loro fallimenti, tra eterne conversazioni ed estenuanti ubriacature. Li aveva raccolti entrambi da terra come fagotti, li aveva messi ognuno nel suo letto coprendoli bene al sorgere del sole. Aveva preparato per entrambi tortilla spiccanti e caffè nero. Aveva fatto a entrambi la valigia quando se ne andavano al ranch di Tlaxcala. Con entrambi aveva cantato nelle notti senza luce elettrica che sovrastano il monte La Malinche. Era sposata con uno dei due, molto felicemente, e l'aveva amato sempre come si deve. L'altro cominciò ad amarlo come un'estensione di quell'amore e finì per innamorarsi della sua voce e delle cose che le diceva. Ma non fu colpa sua. In realtà non fu colpa di nessuno. Succede così a volte e non vale la pena di perdere il sonno cercando di scoprire il perché. Suppongo che Antonio Sanchez abbia pensato qualcosa di simile quando decise di andarsene chissà dove senza lasciare neppure un biglietto né reclamare un soldo di tutti quelli che aveva investito in società con Rodoreda. Se ne andò la mattina dopo che il suo socio gli aveva fatto sapere che la sua signora era incinta e non si portò via nessuna delle sue cose, neppure le forbici con cui tagliava la punta dei sigari. Ai suoi cassetti mancavano soltanto tre camicie e un paio di pantaloni, di modo che Daniel Rodoreda pensò che avesse avuto qualcosa di urgente da sbrigare e che sarebbe tornato per il fine settimana. Ma passarono più di 6 mesi senza sue notizie e Rodoreda cominciò a sentire la sua mancanza come di un cane. Sentiva il bisogno della sua presenza sorridente e audace. Gli mancavano le sue osservazioni, il suo impegno, la compagnia a tempo pieno cui era abituato, la sua complicità, soprattutto negli ultimi mesi della gravidanza, che aveva trasformato la sua allegra e vitale moglie in un fagotto che parlava appena, che poteva passare oltre ore senza dire una parola, che piangeva per qualsiasi domanda e con difficoltà buttava giù 3 cucchiaiate di minestra per alimentare la meraviglia che portava in grembo. Amanda non era ancora nata. Quando la sua futura nonna paterna ebbe la delicatezza di domandare a suo figlio se fosse sicuro che per il ventre di sua moglie non fosse passato altro sperma che il suo. Quella sola domanda fu sufficiente a distruggere il castello di carte che era ormai la vita di quel marito, impegnato a non vedere il dolore che oscurava gli occhi di sua moglie. Rodoreda tornò a casa per buttarsi sul letto e cercare di morire. Rimase a letto 2 settimane in preda alla febbre, schiumando dalla bocca e colando un liquido azzurrognolo dagli occhi. La pelle grigia e i capelli che si andavano incanutendo uno ad uno, ma a una velocità tale che quando tornò in sé aveva la testa completamente bianca. Sua moglie gli era accanto e lo vide aprire gli occhi per la prima volta per guardare, non solo per perdersi in un orizzonte irraggiungibile. Vide che la stava guardando e una pace che mai aveva immaginato la fece sorridere come la prima volta. Perdonami, disse. Non ho niente da perdonarti, rispose lui. Non tornarono mai più sull'argomento. Un mese più tardi nacque una bimba dagli occhi chiari, che Daniel Rodoreda battezzò come sua e con la quale finì per perdere quel poco di seno che gli rimaneva. Disse che al momento non si sarebbe potuto trovare nulla di più bello e la guardò crescere innamorato perfino della collera che le oscurava gli occhi di fronte alla minima avversità. Quando morì sua madre, Amanda aveva 10 anni e nel suo sguardo per mesi ci fu più rabbia che tristezza. A Rodoreda successe lo stesso, così che vissero insieme per più di un anno senza rivolgersi la parola. Un giorno Rodoreda si incantò a guardarla, mentre china su un quaderno faceva i compiti. «Ma a chi assomigli tu?» gli chiese accarezzandola. «A me?» rispose Amanda. «A chi vuoi che assomigli?» «A mia nonna», disse Rodoreda, e cominciò a raccontare le storie di sua nonna nelle Asturie, finché la conversazione tornò nella casa. 10 anni più tardi, Antonio Sanchez tornò in città, bello e irresistibile come sempre. A 45 anni era talmente identico a se stesso che tornò ad affascinare Rodoreda. Era andato a cercarlo, gli aveva chiesto perdono per essersene andato senza una parola. L'aveva abbracciato forte e non gli aveva chiesto conto di nulla, informandosi sulla situazione dei ranch e del negozio a cui si era riferito come ai tuoi affari, mai ai nostri. Soltanto quando parlarono di Amanda Rodoreda, notò nella sua voce qualcosa di più dell'interesse di uno zio assente e distratto. Allora la mandò a chiamare, felice e ansioso di mostrargli quel tesoro. Amanda entrò nella sala con la sua testa piena di ricci e una matita in bocca. «Papà, sto studiando», disse, con questo tono frettoloso e seccato che lo mandava in estasi. «Perdona i suoi modi», disse Rodoreda a Antonio Sanchez. «In febbraio comincia l'università ed è una ragazza puntigliosa». «Va all'università?» chiese Antonio Sanchez, abbagliato da quel prodigio che sorrideva con la stessa impazienza dissimulata di suo padre. «Sì», disse Rodoreda, «finalmente qualcuno in questa famiglia potrà essere un intellettuale a tempo pieno». «E che cosa studi?» chiese Antonio Sanchez all'angelo superbo che aveva di fronte. «Diritto», rispose Amanda. «E lei chi è?» «Mi chiamo Antonio Sanchez», rispose lui, guardandola come se fosse la Via Lattea. «Ah sì? Lei è quello che dicono sia mio padre?» ridisse Amanda come se parlasse del tempo. «E che cosa è tornato a fare? A sposarsi con me?» Perché io non sembro affatto figlia sua, né ho alcuna voglia di esserlo. Daniel Rodoreda si tolse gli occhiali e si mise a masticare nervosamente una stanghetta finché gli rimase fra i denti. Ma che cosa stai dicendo? Domandò a sua figlia. Non sono io a dirlo, papà, tutti ne parlano. Perché noi no? Il Signore mi ha generato? Assolutamente no. Chi lo sa? Chi lo sa? Fece eco Antonio Sanchez. Chi lo sa? Domandò Rodoreda. Lo so io. Tu sei figlia mia perché sei identica alla mia nonna materna, fino alle pieghe del collo, perché sai cantare come mio padre e infuriarti come soltanto io so fare. Molto bene, che fortuna. Sono tua figlia. Allora voglio sposare il tuo amico. Amanda, non farmi diventare scemo. Come? Se quello che voglio è proprio farti tornare in te, dimostrami una buona volta che puoi davvero credere con tutto il tuo cuore a quello che gridi ai quattro venti. Amanda è mia figlia. Certo che sono tua figlia, Daniel Rodoreda. Tua moglie non è mai stata a letto con il tuo amico, vero? Vero, disse Sanchez. E Amanda non è un dono di Dio, né un colpo di fortuna, né una furia che la tua generosità ha raccolto. Amanda è tua figlia e per questo si sposerà con il tuo secondo padre, con il suo secondo padre. Perché finiscono i pettegolezzi, perché i padri delle mie compagne di scuola, le mie bambinaie, mia nonna, le maestre, il parroco di San Sebastiano, il signor arcivescovo e il cane che passa per strada si rimangiano le loro illazioni. È per questo che sei tornato? Domandò Rodoreda al suo amico. Un anno dopo, Amanda Rodoreda percorse la navata centrale della chiesa di San Domingo, al braccio di suo padre, che la diede sposa a Don Antonio Sanchez, il suo migliore amico. La notte di nozze la trascorsero tutti e tre insieme nel ranch di Atlico, morti da ridere e finalmente in pace. La zia José Riva de Neira ebbe una figlia con gli occhi grandi come due lune, come un desiderio. Non appena fu tra le sue braccia, ancora umida e vacillante, la zia notò qualcosa negli occhi e agli angoli della piccola bocca che pareva una domanda. «Che cosa vuoi sapere?» le disse la zia José, giocando a far finta di capire quell'espressione. Come tutte le madri, la zia José pensava che non ci fosse al mondo creatura più bella della sua. Era abbagliata dal colore della sua pelle, dalla lunghezza delle sue ciglia, dalla placidità con cui dormiva. Tremava d'orgoglio immaginando che cosa avrebbe fatto con il sangue e le chimere che palpitavano nel suo corpo. Si dedicò a contemplarla, felice e fiera, per più di 3 settimane. Poi il destino implacabile colpì la bimba, con una malattia che nel giro di 5 ore trasformò la straordinaria vivacità in un sonno estenuato e remoto che sembrava riportarla verso la morte. Quando vide che tutti i suoi talenti, guaritori, non producevano alcun miglioramento, la zia José, pallida per il terrore, la portò all'ospedale. Qui gliela torsero dalle braccia e una dozzina tra medici e infermiere presero ad agitarsi confusamente intorno alla bambina. La zia José la vide scomparire dietro una porta che le vietava l'accesso e si lasciò cadere a terra, incapace di reggere se stessa e quel dolore simile a un abisso. Così la trovò suo marito, che era un uomo sensato e prudente, come gli uomini fingono di essere. L'aiutò a rialzarsi e la rimproverò per la sua mancanza di buon senso e di speranza. Suo marito aveva fiducia nella scienza medica e ne parlava come altri parlano di Dio. Per questo lo turbava l'insensatezza di sua moglie, incapace di far altro che piangere e maledire il destino. Isolarono la bambina nel reparto di terapia intensiva. Luogo bianco e pulito, a cui le madri avevano accesso soltanto mezz'ora al giorno. Allora si riempiva di invocazioni e preghiere. Tutte le donne facevano il segno della croce sul viso dei figli, passavano sui loro corpi immaginette sacre, acqua benedetta, pregavano tutti gli dèi che li facessero vivere. La zia José riusciva soltanto ad arrivare fino alla culla dove sua figlia respirava appena e a dirle non morire. Poi piangeva e piangeva, senza asciugarsi gli occhi e senza muoversi, finché le infermiere l'avvisavano che era ora di andare. Tornava allora a sedersi sulle panche accanto alla porta, il capochino, senza appetito né voce, astiosa e intrattabile, fervente e disperata. Che cosa poteva fare? Per che cosa doveva vivere sua figlia? Che cosa poteva offrire al suo corpicino pieno di aghi e sonde per fargli venire voglia di rimanere al mondo? Che cosa poteva dirle per convincerla che valeva la pena di fare lo sforzo di non morire? Una mattina, senza sapere perché, ispirata solo dai fantasmi del suo cuore, si avvicinò alla bimba e cominciò a narrarle le storie delle sue antenate. Chi erano state? Con quali uomini avevano intrecciato le proprie vite prima che la bocca e l'ombelico di sua figlia si formassero in lei? Di che pasta erano fatte? Quante traversie avevano passato? Quali pene e quali gioie le avevano lasciato in eredità? Chi aveva seminato con coraggio e fantasia la vita che toccava a lei prolungare? Per molti giorni ricordò, immaginò, inventò. Ogni minuto di ogni ora disponibile parlò senza tregua all'orecchio di sua figlia. Finalmente, la sera di un giovedì, mentre narrava instancabile una delle tante storie, sua figlia aprì gli occhi e la guardò con occhi avidi e pieni di sfida, come sarebbe stato il resto della sua lunga esistenza. Il marito della zia José ringraziò i medici ringraziarono i progressi della scienza, la zia abbracciò la sua bambina e lasciò l'ospedale senza dire una parola. Soltanto lei sapeva chi doveva ringraziare per la vita di sua figlia, soltanto lei conservò la certezza che nessuna scienza fu efficace quanto quella celata nelle difficili e sottili scoperte di altre donne dagli occhi grandi. Alla fine della sua vita coltivava violette. Aveva una stanza luminosa che poco a poco si riempì di fiori. Giunse a coltivare i più stravaganti e le piaceva regalarli perché tutti avessero in casa il persistente aroma di concia esparsa. Morì circondata da parenti inconsolabili, avvolta nella sua vestaglia di lucida seta azzurra, con le labbra dipinte e un enorme dispiacere perché la vita non aveva voluto regalarle più di 85 anni. Nessuno sa come facesse a non essere ancora stanca di vivere. Aveva lavorato come un mulo per quasi tutta la vita. Ma le generazioni di una volta erano più resistenti, come tutte le cose di una volta: le automobili, gli orologi, le lampade, le sedie, i piatti e le padelle. Concezione Sparsa aveva, come tutte le sue sorelle, le gambe snelle, i seni grandi e un sorriso inclemente con cui guardava e si guardava, una totale sfiducia nei santi di gesso e una fede cieca negli spiriti e nei loro scherzi. Era figlia di un medico che aveva preso parte alla rivoluzione di Tuxtepec, diventando deputato federale nel 1882 e unendosi al movimento antireeleazionista nel 1908. un uomo saggio e affascinante che le aveva permeato la vita con il gusto per la musica e le cause difficili. Ma poiché il destino suole dosare i propri doni, quanto aveva donato in più del padre, tolse nel marito. Concia si sposò con un uomo di nome Iniesta, il cui unico difetto era di somigliare tanto ai propri figli che lei dovette trattarlo sempre come un altro figlio. Non era molto portato per il guadagno e l'idea che l'uomo mantiene la famiglia, tanto comune ai tempi, non ispirava alla sua esistenza. Portare a casa da mangiare, fare in modo di avere un tetto sulla testa e coperte sul letto, pagare la scuola dei bambini, vestirli e altre simili quisquiglie furono sempre compiti di sua moglie Concia. Nel frattempo lui fantasticava su grandi affari che non andavano mai in porto. Per concludere uno di questi affari pensò bene di emettere un assegno a vuoto per una somma tale che fu spiccato un mandato di cattura contro di lui e la polizia venne a cercarlo a casa. Quando Concia seppe di che si trattava, disse la prima cosa che le venne in mente. Il fatto è che quest'uomo è pazzo, pazzo furioso. Con questo argomento lo accompagnò in tribunale, gli impedì di tentare una difesa che lo avrebbe affondato del tutto ed evitò che lo mettessero in prigione. Al posto di un destino tanto orribile, con questo argomento, Concia Esparsa ottenne il ricovero di suo marito in un manicomio vicino alla piramide di Cholula. Era un luogo tranquillo, gestito da frati ai piedi del monte. Riconoscenti per le visite mediche del padre di Concia, i frati accettarono di accogliere nel loro istituto il signor Iniesta, fin tanto che non fosse sbollita la storia dell'assegno. Naturalmente, Concia doveva pagare tutti i mesi la retta per il mantenimento di quell'uomo che pazzo non era tra le tranquille mura del manicomio. Per 6 mesi sostenne lei lo sforzo di pagare i costi della permanenza all'istituto. Quando le sue finanze furono ridotte allo stremo, decise di andare a riprendersi suo marito, dopo aver ottenuto il permesso del tribunale di farsi carico di lui e delle sue azioni irresponsabili. Una domenica andò a Cholula per portarlo a casa. Il signor Iniesta stava facendo colazione insieme ai frati e li faceva ridere raccontando loro la storia del marinaio che si era fatto tatuare una sirena sulla pelata. Anche lei, padre, dovrebbe farsene tatuare una, stava dicendo al più sorridente. Mentre conversava, il signor Iniesta vide arrivare sua moglie per il corridoio che conduceva al refettorio. Continuò a parlare, a ridere per tutto il tempo che la zia Concia impiegò a raggiungere il tavolo attorno al quale lui e i fratati chiacchieravano con quell'allegria infantile tipica degli uomini quando si stanno circondati da altri uomini. Come se ignorasse le regole di tale esclusività, Concia Esparsa girò intorno al tavolo facendo risuonare i tacchi alti delle scarpe che tirava fuori dall'armadio soltanto in occasioni a suo giudizio memorabili. Quando fu davanti a suo marito, salutò il gruppo con un sorriso. «E tu che cosa ci fai qui?» le chiese il signor Iniesta, più imbarazzato che sorpreso. «Sono venuto a prenderti», rispose la zia Concia, parlandogli come si parla ai bambini quando li si va a prendere a scuola, giocando a portar loro il tesoro della libertà in cambio di un bacio. «Perché?» fece Iniesta mortificato. «Qui sono sicuro, non mi conviene andarmene. E poi sto bene qui, si respira un'aria di giardini e tranquillità proprio congeniale al mio spirito». Che cosa? Disse Concia Esparsa. Te l'ho detto, per il momento non ci sto male qui. Non ti preoccupare, sono in buoni rapporti con i sani e non me la passo male con i matti. Alcuni di loro hanno momenti di eccezionale ispirazione, altri sono eccellenti interlocutori. Il riposo mi fa bene. In questo posto anche quelli che urlano fanno meno rumore dei tuoi figli, disse, come se lui non avesse nulla a che vedere con l'esistenza di tali figli. Iniesta, che devo fare con te? Domandò al cielo Concia Esparsa. Quindi girò sui tacchi e raggiunse il cancello. Per favore, padre, disse al frate che l'accompagnava, gli spieghi che le sue vacanze costano e che io non ho intenzione di pagargli un giorno di più. Non si sa che cosa il padre, spiegò al signor Iniesta, ma la mattina seguente il catenaccio della porta della zia Concia risuonò lento, come lo faceva risuonare la calma con cui apriva suo marito. Sono tornato, mamma, disse Iniesta con un tono da funerale. Bene, figliolo, gli rispose sua moglie senza mostrarsi sorpresa, il signor Benitez ti sta aspettando. Per propormi qualche affare, disse lui recuperando la vivacità della voce. Vedrai, vedrai che affare, Concia, te ne accorgerai. Così era quell'uomo, commentava la zia molti anni dopo. Fu così per tutta la vita. A quell'epoca la locanda della zia Concia aveva avuto tanto successo da farle mettere insieme i risparmi necessari per aprire un ristorante, che in seguito le lasciò il tempo di commerciare in immobili e le consentì perfino di acquistare un terreno a Polanco e un altro ad Acapulco. Quando i suoi figli crebbero e il signor Iniesta morì, imparò a dipingere le onde della Quebrada e a comunicare con lo spirito di suo padre. Pochi sono stati felici come Concia a quell'epoca. Per Per questo le dispiacque tanto che la vita se ne andasse proprio adesso che cominciava ad apprezzarla. Fine.